che sento. Con nuovo portento alla sentenza crudel il nome accetta. Se contro un innocente darsi può dunque in ciel rigor si atroce, impunire i delitti qual castigo fia mai di più durezza. Oddio, non tormentare. pensarmi. Noiosi tormenti, miei giusti lamenti, linguaggio cancello, saran le voci di cattolo, di storia e di vendetta. Farò palese ammeto che fosti di tua figlia ardito amante, e quali fui in amarti, tali lo dirti ancora starò.